ma adesso siamo, non siamo più in ritardo. Adesso cominciamo con la discussione su tutte le quattro relazioni, cominciando con professoressa Voigt, professor Velba, professor Camelli e signor Knebi. Chi vuole intervenire al primo posto? Professore Guaglioni? La spesa forse sì, è meglio tanto dispersiva al suono quest'aula. Non succede, si adesso interrompi a No, parlo in piedi, per carità, ma non è necessario, no? Pochissime cose, se mi è permesso, su le relazioni nel loro complesso. Io vorrei esprimere innanzitutto il mio apprezzamento per la relazione della professoressa Walsh, che ho trovato ricca di notizie e parimenti di giudizio storico. E di grande interesse dal mio punto di vista, soprattutto nelle sue considerazioni sulle espressioni precoci, ecco, nell'Inderbach, di sentimenti antiebraici. Il ricordo del prognostico di Giovanni da Lubecca e quindi anche di Feliciano, rammentato anche in seguito, mi pare estremamente pertinente, anche per il legame che attraverso il Feliciano esiste con una stampa, è vero, non trentina, ma una stampa della cosiddetta storia di Simone. Queste considerazioni le trovo della massima importanza, anche quelle relative ai rapporti con l'ambiente osservante, soprattutto alla luce di preoccupazioni che ancora esistono, e non solo in ambito locale, e che anche ultimamente sono state espresse, in grazia di così, una sorta di retour de conscience, ecco, fortemente retrospettivo per la vicenda simoniniana, cosa che riguarda appunto soprattutto la presenza accertabile o meno di Bernardino da Feltre a Trento, ad esempio, cosa sulla quale si potrà ancora discutere a lungo. Io credo che in questo senso il ritratto morale, per così dire, dell'Inderbach si stia chiarendo, anche a dispetto di una tendenza, mi pare, che spesso appare negli studi a rimpicciolire, no? A minimizzare questa figura, che invece io continuo a pensare sia una figura notevole, di statura notevole, di umanista forse no, di giurista, di canonista mi pare senz'altro, senza avvicinarlo ai Roselli o ai Di Castro, ma certamente figura notevole, e da questo punto di vista credo che anche la produzione letteraria dell'Inderbach debba essere riesaminata. Ci sono certamente delle sue opere, Bella Barba potrebbe dirci molto, credo, spero che ci dirà molto al proposito. Ci sono opere dell'Inderbach giurista, forse non destinate alla pubblicazione, o almeno non nel senso che la parola ha per noi, ma che hanno circolato e che l'Inderbach voleva circolassero. Si tratta di allegazioni, di consiglia, di pareri legali, di interventi in processi che non sono solo i processi agli ebrei di Trento, ma anche a proposito dei processi agli ebrei di Trento ricordo che l'informatio dell'Inderbach è tutto sommato un testo letterario, le responsiones alla apologia del commissario apostolico sono anch'esse in qualche modo una composizione letteraria destinata cioè non solo a un intervento in sede giudiziaria ma a circolare fra i dotti, fra gli umanisti, non solo fra i giuristi. La stessa Historia Beati Simonis, che possediamo in un abbozzo, si presenta come tale, ma anche molte delle lettere, quelle destinate allo Zovenzonio, per esempio, non solo sono scritte vero, in una forma che è diversa da quella delle tante minute che possediamo, ma sono fatte anche copiare in bella umanistica, evidentemente perché si voleva che in qualche modo circolassimo. Lo stesso si può dire per la stampa, credo che la dottoressa Esposito potrebbe dirci parecchio sulla, non sul CUNE, ma sul finanziamento di altri incunaboli che riguardano la vicenda simoniniana e della quale oggi abbiamo le prove. Ecco, tutto qui. Grazie. Grazie al professor Palmoni per il suo intervento. Domanda ha tratto la nostra attenzione sui legami fra il Hindapach e gli ordini religiosi durante la sua formazione intellettuale e ha in un certo senso corretto il lato umanista del Hindapach. In questo senso io vorrei chiedere se i legami fra il Hindapach e gli ordini religiosi del Trentino sono state studiate, perché lì si avrebbe una forma di prova per il suo argomento di prima, per esempio i canonici regolari di San Michele oppure quelli di Clis, e soprattutto gli ordini mendicanti di Trento, di Bolzano, eccetera. Perché io ho certi dubbi, per esempio, se questi legami sono stati così stretti. Per esempio, il fatto che il Hindapach è stato inserito nella comunità di preghiera, si dice, comunità di preghiera, è veramente un segno di legame spirituale o soltanto una questione di denaro? Perché in questo tempo tanti nobili sono membri di queste comunità di preghiera e non è un segno di vicinanza spirituale, ma piuttosto di speranza della redenzione per le preghiere. E un altro fatto, i legami verso Georgenberg nel Inntal, nel Nord Tirol, è un fatto di una conoscenza, diciamo, personale con Caspar Augsburg e non un fatto di legame spirituale. Un terzo punto, ma questo è una piccola cosa, il fatto che il Hindapach è stato ordinato vescovo ai santi 12 apostoli a Roma e quindi una vicinanza verso frati minori, questo mi sembra un fatto piuttosto che viene messo in dubbio, perché vicino ai santi apostoli c'erano pochi, veramente pochi frati. Il convento principale dei frati minori di Roma è quello di Santa Maria in Araceli, e quindi sono piuttosto domande secondarie che vorrei fare alla professoressa Wolfs, grazie. Grazie, professor Manicek. Penso che molto utile se la professoressa Wolfs rispose. E forse Monsignore Roccia può dire qualcosa sull'ambito religioso nel Trentino. Bruttissima italiana, ma faccio. Da prima è una cosa dei legami con gli ordini religiosi durante la formazione intellettuale. Durante la formazione abbiamo conoscenza solo di una notizia con legami con i domenicani. Questa non è veramente una cosa di denari. 1448 non era Hindapach in una posizione che deve essere mecene per i domenicani. La seconda il secondo aspetto di queste cose con i domenicani, proprio il padre domenicano che aveva fatto, che aveva concede questi privilegi. E il gran fattore è proprio il primo domenicano nel Teutonia che insisteva sulla riforma dell'osservanza. Era una cosa molto difficile e questo priore provinciale Petro Svelen era stato priore provinciale del 46 fino al 55 e poi da 57 fino alla sua morte 69. È veramente il primo uomo della riforma dell'osservanza del Teutonia per i domenicani. Questa mi pare è una cosa di interesse personale. Non è una cosa di potere, perché in questo momento non aveva potere. Le altre cose, Georgenberg, Tegernsee, è stato divenuto vescovo, e sì, certo, è una cosa prestigiosa. I monaci si interessano per queste cose, è sempre non è veramente una cosa di confraternita, ma è una cosa di legami religiosi. I primi contatti fra Hindenburg e Tegernsee che io avevo trovato sono direttamente legati con i suoi interessi geografici. Donna alla base di Tegernsee con una serie di domande molto precise. Le conosce, Monsignor Roger? Perché si interessa per queste fonti geografici. Allora, forse le vuol dire è una cosa di prestigiosa, cosa prestigiosa, è una cosa di denari. Io non sono sicuro. Le legami che io avevo trovato sono in primi, nella prima riga, interesse a geografici. A Georgenberg, Caspar Augsburger, già sappiamo che abbiamo studiato insieme. Forse è questo è una cosa non solo di interesse religioso, ma anche di interesse umanistici. Un regalo era questa traduzione fatta da Ambrogio Traversari. In questo punto vorrei dire che io non sono sicuro se è possibile in quest'epoca, nei circoli dove ci sono monaci con interessi patristici, con interessi umanistici, è possibile di fare una divisione di là gli interessi laici, umanistici, intellettuali, di là gli interessi religiosi. Io non posso fare una divisione. Ci sono altre cose? A Pesarione. Dodici apostoli francescani. Vorrei dire c'è veramente un interesse ai francescani. Non esiste un studio moderno sui legami fra Hindenburg e gli ordini religiosi a Trento. Padre Goethe non c'è, mi spiegate perché forse è andato via. Io non conosco un studio moderno, conosco solo spiegazioni parziali. Ma quando si consulta i codici liturgici breviari e questi libri che aveva commentato Hindenburg personalmente, si trova sempre fra le note che sono state aggiunte da lui personalmente, i noti su santi francescani, su predicatori francescani, io ho preso soltanto un esempio, Bernardino da Siena, ma ci sono molti altri. Nella mia relazione non volevo fare una lista di santi, anche i martiri, altri gli altri, ma ci sono molti francescani dove era aggiunto il nome, la festa, note liturgici nel mano propria. Non aveva fatto questo nel campo dei Domenicani. Nel campo dei Domenicani facevo soltanto i pezzi grossi. Tommaso d'Aquino, Alberto Magno. Ma questo interesse personale manca nelle parti dei Domenicani. Secondo me esiste alcune indicazioni per i francescani. E in questo modo forse era la sua decisione di cercare le ordinazioni vescovili alla Basilica di 12 Apostoli. Da una parte un'amicizia francescana e dall'altra parte, e questo è veramente importante, era la Chiesa che teneva il cardinale Bessarione sempre in comenda. Dopo la sua nomina al cardinale era la sua chiesa titolare e dopo è avanzata in un'altra chiesa titolare, teneva i 12 apostoli ancora in comenda. Allora i righi a Bessarione sono i legami a Bessarione sono un'indicazione e mi pare anche i suoi interessi alle francescane, alle predicatori francescane, forse un altro. Grazie professoressa Wolf. Posso aggiungere una piccola osservazione su questo tema? È molto utile di studiare le relazioni curiali di Giovanni Hindenburg, specialmente nei questi anni 1465, 66 o 77. In questi 2-3 anni sono andate cose molto importanti. Io posso soltanto sottolineare che penso, credo, che il cardinale greco Bessarione era un fautore nel collegio cardinalizio, era relatore nel consistorio segreto in causa tridentina e in questo modo era forse un centro, una persona di ruolo per la sua promozione vescovile. L'altra persona che è anche importante per questo genere è il Vicarius Urbis, vicario generale del Papa, il famoso, molto noto vescovo bresciano, primo Veneto, Domenico de Domenici. E io ho fatto soltanto una piccola riga nella mia produzione sul tema della pensione annuale al cardinale Francesco Gonzaga da pagare da parte di Hindenburg. Il Papa ha forse avuto un consiglio, un compromesso da parte del Domenici. Per quella soluzione da pagare una volta mille fiorini e poi la causa è finita, Francesco Gonzaga andava a Mantova e Trento rimane a Hindenburg. Poi un'altra cosa, durante il mio ultimo soggiorno a Roma, ho studiato anche i libri delle confraternità pubblicate, libro Confraternitas Sancta Maria de Anima, la Chiesa Nazionale Teutonica e l'elenco della confraternità al Campo Santo Teutonico. E non c'è un cenno di Hindenburg. Questo è anche da studiare. Queste due righe ho voluto aggiungere come una osservazione. E per... Scusi tanto. Grazie. è già data che non era membro della confraternita, non era non si interessava per queste comunità Santa Maria dell'Anima o le altre confraternità a Roma. E questa è una cosa interessante da Hindenbach. Nel 1478, come dicevo nella mia conferenza, ha messo dal priore dell'ospedale di Santo Spirito in Sassia alla comunità di preghiera, ma non è divenuto mai membro di questa confraternita. Forse è un segno, evitava queste confraternità. Voleva partecipare alla preghiera, ma non voleva essere membro della confraternita, perché non esiste negli elenchi dei confraternità di Santo Spirito in Sassia. Grazie. Grazie. E prego Monsignore Roccia di parlare alcune osservazioni sul tema locale. Io ho trovato molto interessante quanto la professoressa Walsh porta a proposito della relazione tra il vescovo Hindenbach e gli ordini religiosi, come pure quelli alcuni riferimenti a casi che a noi erano ben poco noti, perché sull'ambiente nostro finora credo sia noto così genericamente il rapporto, diremmo, di simpatia o i molteplici legami visti abbastanza vagamente con i francescani, e non è stato approfondito di più invece sia il rapporto con San Georgenberg sia con canonici regolari o benedettini o altre cose. E quindi è una pista utile, mi pare, e interessante. Io trovo parecchio interessante, anche vorrei approfittare dell'occasione per chiedere se qualcuno può aiutarci un po' di più a rifinire le idee. Questo fatto dell'associazione a confraternità di preghiera, nel senso anzidetto, appunto, che non vuol dire entrata nella confraternita, ma a confraternità di preghiera, che io conosco come un fenomeno molto medievale. Nei monumenta liturgica primo volume abbiamo scoperto che a Trento c'è registrato nel sacramentario udarriciano 1042 una filza di nomi che altro non sono, non si conosceva prima la ragione di questo elenco, altro non sono che una tipica confraternità di preghiera di tipo medievale, di ecclesiastici e laici dell'entourage di Enrico II, che si sono fatti iscrivere a un dato momento nei ruoli tipici delle confederazioni di preghiera, vero, tipici di quell'epoca proprio, no? Qui gli studi anche degli editori dei monumenta, dei libri memoriali del Medioevo, vero, la scuola di Tellenbach, Schmidt, eccetera, vero, mi ha aiutato molto a capire questo particolare modo di alleanze di preghiera che sono caratteristiche del Medioevo. Ecco, con tutto ciò che è caratteristico per il Medioevo, lo ritenevo tramontato, lo ritenevo un'anticaglia rispetto al tempo in cui qui viviamo, al punto tale che a me fa già oggi un po' problema, ed è per questo che approfitto dell'occasione per indagare, insomma, se può venirmi qualche aiuto, il fatto che nel sacramentario adelpretiano, cioè in quel sacramentario della chiesa di Trento, in cui si trova ricordato San Romedio al 1 ottobre, in scrittura quasi originale, che è fatto per la chiesa di Trento, qui l'edizione del sacramentario nei monumenti liturgica è decisiva a questo riguardo ed è l'ultimo contributo recentissimo di quest'ultimo anno, no? Sacramentario che non è nato a San Romedio, ma è sacramentario della chiesa di Trento, della cattedrale di Trento, molto capitolare anche nella forma di liturgia che contiene, ma sacramentario che è stato portato a San Romedio verso il 1230, no? E lì ha ricevuto una serie di notizie molto distribuite nel tempo, dal secolo XIII al secolo XV, una serie di annotazioni successive che in buona parte sono un Liber Confraternitatis Sancti Romedii, no? E registrano lì dentro, con mano del secolo XIII-XIV, nomi di una fraternitas di questo tipo. A me faceva già un certo problema l'esistenza, ma in un santuario periferico, di una confraternita di quel tipo. Adesso trovo invece che il Hinderbach, vero, lui stesso è attivo nel farsi iscrivere in federazioni di preghiera di quel tipo. Per cui la mia domanda sarebbe veramente: fin quando ha esistito e funzionato questo sistema di federazione di preghiera, che se no è caratteristico del secolo XI, vero? E in quali aree lo si riscontra? Sono grato della risposta, se permette concludo adesso il mio intervento, tornando a Trento invece, a riguardo dei francescani, degli ordini religiosi. Io credo veramente che può essere recepito come uno stimolo di questo convegno, quello di osservare un po' più attentamente il mondo di relazioni con le famiglie religiose esistenti a Trento, città e diocesi. Per quel che riguarda i francescani, credo che anche qui, forse come altrove, occorra per quel tempo fare una distinzione più accurata tra i francescani di vecchio stampo, cioè quelli che noi chiamiamo i conventuali, che avevano a Trento il loro vecchio convento e continuavano ad esistere in questo tempo, ma che nessun studioso trentino prende in considerazione perché dall'epoca napoleonica non c'è più. Era il convento di San Francesco, esistente dove oggi ci sono le suore in Piazza Venezia, insomma, no? Era il convento di San Francesco, che certamente ha una continua osmosi nella vita diocesana. Però, verso la metà del secolo XV, nasce anche a Trento l'osservanza francescana, con un convento nuovo, che è il convento di San Bernardino di Siena, il santo canonizzato nel 1450, il santo novissimo del 1450. I prodromi di quello sono ancora Giovanni da Capestrano, presente a Trento in un sinodo 1437 sotto Alessandro di Masovia. Certamente il convento esiste nel 1451 a Trento. Al momento non ho notizie precise, mi sfuggono circa le origini di questo convento. A proposito del Hinderbach e dei vescovi, non solo del Hinderbach, occorre tenere presente i vari vescovi suffraganei di Trento, gli ausiliari, tra cui il vescovo Giovanni, mi pare si chiama, di Tino e Mykonos, che è ausiliare di Alessandro di Masovia e del successivo, Giorgio Hack, del quale c'è un codice che è molto significativo a questo riguardo, un bel messale, con calendario fortemente postillato dal vescovo Giovanni di Tino e Micona, francescano, no? Che è conservato al Castello del Buon Consiglio oggi, che poi era passato nel convento, penso San Bernardino, dunque osservante, e che il Hinderbach acquistò per la sua biblioteca, aggiungendo poi a sua volta una serie di postille sul calendario e anche di elementi sul proprio, soprattutto nelle letture, no? E che il Hinderbach comperò dal guardiano di San Bernardino per impedire che andasse fuori sede, che andasse in altre mani. Ecco, sono indicazioni, ecco, ma tutto sarebbe da comprendere in un modo più pieno circa questa vicinanza o non vicinanza del Hinderbach agli ordini, fra gli ordini presenti a Trento. Grazie, Monsignor Roccia. Sì. La parola di nuovo al professor Malicek. Vuole chiedere qualcosa? Molto brevemente, se permettete, lo faccio in tedesco perché die Aufnahme in eine Gebetsbrüderschaft ist im ständigen Alltag dann nichts Außergewöhnliches. Meistens ist das an der römischen Kurie oder an den zentralen Stellen der Beckenort in Rom vollzogen worden. Das heißt, wenn irgendein Adeliger oder ein Fürst aus dem sorgt er sich gewöhnlich mehrere Urkunden. Zunächst das Privileg, den Beichtvater reden zu können. Zweitens irgendeinen Ablass, entweder von einem Kardinal oder sonst einem Individualen. Und drittens die Aufnahme in die Gebetsbrüderschaft, sei es bei den Dominikanern, sei es bei den Franziskanern. So nie der Ordensgeneral in Rom verschwindet die Gebetszahlung dieses Privileg. Das hat mit dem Dominikanern. Posso tradurre, dunque, questo sistema di inserimento, di assunzione in queste fraternità di preghiera era una cosa usuale e molto diffusa nel tardo Medioevo, ma con particolare riferimento proprio agli ordini mendicanti, una moda che era andata facendosi, vero, per cui anche diplomati o inviati, cioè il centro principale che coordinava questo è l'ambiente romano, dove dai generalati di questi ordini, dai generali di questi ordini, vero, chi voleva, nobili ed altri, si acquistavano simili patenti di indulgenze, di privilegi spirituali e così via. Però se posso aggiungere di mio, in realtà a questo mi sembra veramente l'ultima fase di tramonto, che è già molto diversa organicamente, che non la federazione di preghiera che prima avveniva con santuari vari, abbazie benedettine, chiese cattedrali che avevano insomma santi speciali e che funzionava in moduli molto più concreti, con delle vere e proprie alleanze reciproche e con degli stanziamenti anche in occasione della morte di determinati personaggi, eccetera, vero, che è un po' il punto d'arrivo, l'ultima fase dello sviluppo, che invece in fase precedente. Quando io trovo la Confraternitas di San Romedio, un santuario molto decentrato, che pure ha una simile federazione di preghiera, certamente assomiglia più al vecchio tipo che al nuovo. Grazie. Un'altra domanda? Professor Fubini? Mi riferisco particolarmente alla relazione del professor Welber, ma anche un po' a quello che si è detto in genere, no? Già qui nel manifesto, cioè Johann Hinderbach fra tardo medioevo e umanesimo. E cioè, qui quando si parla di rapporti con l'umanesimo, e allora si è detto, ma no, ma allora questa è ancora una cultura in ritardo, è una cultura che ancora non ha assimilato, e sembrerebbe che l'umanesimo fosse un concetto semplice, e che fosse, diciamo, una cultura universalmente condivisa da, insomma, da un certo così, da un movimento italiano a cui altri non sono ancora arrivati. Non è così il quadro, è un concetto molto complesso e che noi usiamo un po' per comodo in realtà per disegnare dei livelli culturali molto diversi tra loro per cominciare in Italia. Certamente quando si è parlato, per esempio, la congregazione di Santa Giustina, si è parlato di Ambrogio Traversari e quello che noi chiamiamo umanesimo patristico, no? Di San Basilio, eccetera, e della regola monastica, non è la stessa cosa di quando parliamo di Flavio Biondo. Cioè non è che siano necessariamente in conflitto, certamente sono cose differenti. E allora, in questo senso, un autore così, un autore, insomma, una personalità così tipicamente tardo-medievale, che si muove in area asburgica in modo particolare, come è stato ben illustrato di Giovanni Hinderbach, non è una figura in ritardo, è una figura dei suoi tempi che poi si muove in questa zona così significativa di contatto tra culture che genera qualcosa di nuovo e quindi andrebbe valutato in questo contesto, non in un contesto di chi è ancora in ritardo e deve arrivare. E allora c'è, non so, ecco, per esempio faccio uno solo esempio, ho parlato appunto di una menzione della Celestis Hierarchia, no? Dello pseudo Dionigi, no? Come un esempio di arretratezza. In realtà è vero il contrario, cioè quando Valla denuncia, ma no, non è Dionigi l'Areopagita, è una provocazione, Valla è l'eccezione, non è la norma. Io mi ricordo appunto già nel circolo francese di Lefebvre d'Étaples si dedica un'espressa confutazione a questa, diciamo, dissacrazione del Valla perché la Celestis Hierarchia attribuita a Dionigi l'Areopagita aveva un certo valore simbolico molto importante e quindi non bisognava abbatterla negando questa attribuzione secolare, no? E quindi ecco, quindi Valla l'eccezione, non è che invece Hinderbach sia qualcuno che è rimasto indietro. In questo senso mi pare invece da valorizzare molto questa presenza così sistematica, questa attenzione, oltre che una presenza bibliografica così sistematica e incondizionata dell'opera di Biondo. Questo è non è una cosa normale. Biondo ha scritto delle decadi dell'Europa, no? Dopo la declinazione dell'Impero Romano, quindi interessava un po' tutti i popoli, no? Della cristianità europea, ha scritto della Roma instaurata, dell'Italia illustrata, quindi interessava le antichità italiane, ha scritto della Roma trionfante, interessava le istituzioni di Roma antica. Io ho studiato appunto un po' Biondo e ho studiato anche, per quello che ho potuto, i rami della sua fortuna. E allora si vede che è naturalmente una fortuna molto vasta e molto diramata, ma ciascuno cerca un po' quello che gli interessa, quindi c'è chi cerca un settore delle decadi, chi cerca l'aspetto archeologico e così via, chi cerca e discute le antichità della propria regione italiana e così via, ma una presenza così totale di Biondo in quest'area è molto importante. E io penserei anche che, già mi sembra sia stato il professor Strunad che per primo qui in questa sede ha detto che bisognerebbe pubblicare queste postille. Io vorrei associarmi appunto a quest'idea perché, per esempio, avevo studiato io stesso le postille a un'opera che sembrerebbe un po' lontana dagli interessi appunto di un autore, di uno studioso di quella provenienza come Hinderbach, cioè la Roma trionfante. E invece la Roma trionfante, questo grande trattato delle antichità romane, provoca un interesse speciale per Hinderbach, ma con un interesse selezionato. Invece cerca, cioè di trovare, ritagliarsi nell'ambito di questo studio delle antichità romane, di Roma antica, di Roma classica, quello che può interessare un tedesco. Per esempio sono dei cenni ad Armigno, no? E cioè, ecco, e qui siamo alle origini di quel movimento ben noto per cui ci sarà anche una Germania illustrata. E questo è molto importante. Penso anche a un altro autore tedesco importante che si procura tutto Biondo, Hartmut Schedel. E qui, buon discepolo. Ecco, questo bisognerebbe, è un punto che meriterebbe anche solo questo, un'indagine speciale su quello che è, diciamo, l'avvicinamento di Hindenburg all'umanesimo italiano. Ringrazio molto professor Fubini per la sua osservazione. Io vorrei aggiungere, forse sono alcune persone non informate, professor Velva è informato e signor Dottor Porelli e anche altri. Abbiamo tutti i 5 volumi del Flavio Piondo della Biblioteca di Hindenburg. Abbiamo 2 volumi già vienesi alla Biblioteca Comunale, forse una in mostra, io non sono informato, e abbiamo gli 3 altri a Vienna nella serie nuova della Biblioteca Nazionale. E quasi tutto è completo e tutti i 3 volumi sono scritti da un Hugo Hemste e un sbaglio, un errore nel catalogo Gentilotti dove è scritto Johannes Hemste, forse ha fatto una confusione con Johannes Hindenburg e Hemste, e tutto fatto nel periodo, come ho detto prima, 1465 fino 67. Questo è molto importante di studiare una volta, anche le annotazioni, come ha espresso il professor Fubini. Grazie molto. Professor Velba? Professor Velba, vuole dire qualcosa? No. Allora, altri? Solo una piccola domanda di desiderio, ma approfittando dei paleografi che convergono verso questo convegno, ecco, il canonico Glaspek o Slaspek? Slaspek. Glaspek. S Salerno Livorno, Slaspek. S. Comincia con S. Ambrosio, ecco, vorrei Ambrosio, che proprio Slaspek comincia, Slaspek, non Glaspek, Slaspek come Savona, Livorno, Ancona, Savona, Parigi, Empoli, Como, Cursai. Perché paleograficamente è controverso. Slaspek, Ambrosio Slaspek. È un errore paleografico perché non ha capito questo G, e questo S ho letto un chi. Certe volte paleograficamente sbifido veramente. E lo stesso come con il nome, che ho raccontato ieri, il nome del battesimo della madre del Hindenburg. Abbiamo questa attestazione di natività rilasciata dalla contessa di Ziegenhain, Elisabeth von Waldeck, e Pater Johannes Scheib, Sicurus Gavino a Rauschenberg, Matre I. Professore Santifaller, uno dei miei docenti, mio maestro al studio viennese, ha letto nel 1420 o 30, e ha ripubblicato questa lettura, Inrael. E non esiste, io ho domandato a molte persone competenti, non esiste un nome Inrael per una donna. Gabriel, Raphael, Uriel, ma non Inrael. E se le va all'archivio di Stato e faccio una prova del testo, si può leggere Immeln, e una forma vegetativa di Emma o Emeludis. E questo è anche il problema per il nome, per il testo paleografico. Professor Malicek, di nuovo. Vorrei fare una domanda al collega Niemi. Ho trovato la sua relazione veramente interessante e dimostra il bisogno, il desiderio profondo di una collaborazione fra musicisti, musicologi e storici. secondo quello che ho capito, questi codici musicali trentini non hanno niente da fare col Trentino. È un caso che... Sì, o poco almeno, perché i copisti erano... Sì, uno era segretario capellano del Hindapach, ma l'altro parroco di Carlton, che sono piuttosto legati all'ambiente culturale di Oltre Alpe. E adesso vorrei fare l'osservazione che bisogna approfondire la questione se nella corte di Federico IV e di Sigismondo non esisteva un ambiente che favoriva molto la creazione di questi codici. Lei sa perfettamente che la cappella di Sigismondo era una delle più alte in Europa. Sì. Si sa benissimo che Hofheim, Hengisa, tutti quanti passavano attraverso, e non so se nella biografia di Johannes Wolff e di Johannes Wieser non siano questi legami oltre Alpi. Ma i legami oltre Alpe sicuramente sono plausibili per una personalità molto complessa come quella del Lupi, Johannes Wolff, perché se da un lato ha avuto legami con oltre Alpe, con la corte degli Asburgo, ha pur avuto indubitabilmente dei forti legami anche con Trento. Era parroco di Caldario, ma non solo, era anche altarista a Santa Massenza, a Trento, e esercitò la sua funzione fino alla morte. E quindi per ben 20 anni, gli ultimi 20 anni della sua vita, perlomeno, li trascorse sicuramente a Trento. Quindi vi è un duplice legame, almeno per la parte relativa al Lupi, un duplice legame a Trento, per il luogo di residenza del Lupi, possessore di questi codici, di questa parte dei codici, e la precedente vita del Lupi, tra l'altro attestato soltanto per 7 anni, 7 brevi anni, in cui fu al servizio degli Asburgo. Per quanto riguarda invece il Wieser, non so se si possono fare legami con la corte austriaca. Casomai il legame con la corte asburgica viene più dall'analisi del contenuto, che appunto è incompleto, e che porta, più che a un legame diretto con la corte asburgica, a un legame complessivo con una cultura musicale, no? Molto itinerante e circolante. Basti ricordare che Dufay non ha avuto legami con i duchi d'Asburgo, ha avuto legami soprattutto con l'Italia nella prima parte della vita, Roma, Ferrara, quindi tornò nelle Fiandre. Binchois, altro compositore fortemente presente nei codici trentini, anche lui non ha avuto legami con gli Asburgo. Si è presupposto più un legame verso la zona del Concilio di Basilea, a cui parteciparono, come ben sapete, tutti o quasi i potentati dell'epoca, almeno all'inizio. Sì, e non soltanto questo, il Concilio di Basilea ha luogo in un ambiente asburgico più o meno. Chiaro. Perché nella Svizzera settentrionale, nell'Alsazia eccetera, ci sono gli Asburgi, e soprattutto Federico IV è veramente impiantato in queste zone. Mi domando se i rapporti del Hindapach in questo senso non sono sottovalutati verso il nord. Non so se siano sottovalutati questi rapporti di Hindapach con il nord nel campo musicale. Sicuramente il rapporto tra Hindapach e i codici musicali trentini fu un rapporto negativo, quasi di indifferenza dell'Hindapach, che abbiamo visto oggi postillò, commentò una serie notevole di manoscritti, ebbe un notevole raggio di interesse nella lettura. Nonostante questo, nonostante abbia avuto accanto a sé una persona come il Wieser, possessore di una notevole raccolta anche per l'epoca di musica, non si interessò a questa raccolta. Nulla dell'Hindapach vi è sui codici, a parte il riferimento scritto dalla mano del Wieser alla poesia in onore della nomina di Hindapach a vescovo. E quindi grazie molto. Adesso devi chiudere la prima seduta. Scusi tanto. Prego. E ha ragione secondo me il dottor Malice. Ipotizzando l'interesse comunque verso l'area viennese e soprattutto austriaca, perché Lupi sicuramente proviene da Vienna, ha studiato a Vienna, ci sono i documenti che frequentò l'università di Vienna e tentò più volte negli anni 30 di ritornare verso la città natale di Bolzano. Non vi riuscì, anche se ci sono i documenti a Vienna che, come dire, salvacondotti imperiali proprio firmati da Federico III, ci rendono conto, diciamo, di questa sua volontà di ritornare verso la città natale, verso il Trentino, verso l'Alto Adige, e tentò con Termino attorno agli anni 30 mi sembra, ma non gli andò bene, ritentò più avanti e ebbe, come il professor Niemi ha detto, la Pieve di Caldano. Ovviamente il suo rapporto con Vienna è un rapporto ancora tutto da studiare, però è già si notano i suoi interessi prettamente musicali che porta con sé a Trento. Lui sicuramente, si può dire, ebbe dei rapporti con la Cappella Imperiale. Sicuramente dopo appunto la chiarificazione del rapporto 87-92 e quindi diciamo della scrittura stessa di alcune parti, alcuni fascicoli di questi due codici più antichi e la stesura stessa del codicetto di Svetl, ci riaggancia ovviamente a Wiener Neustadt, dove Lupi ebbe per una trentina d'anni un certo tipo di lavoro all'interno della corte. Ecco, non si sa dai documenti se questo lavoro all'interno della corte concerneva proprio un'attività musicale, però si può presumere benissimo che dato i fascicoli che portò con sé, data la stesura del codicetto di Svetl, eccetera, null'altro si può ipotizzare che non un suo decisivo apporto musicale anche nella cappella viennese. Un'altra cosa che volevo sottolineare è quella del rapporto privilegiato fra Lupi, che arriva a Trento e viene nominato appunto altarista di Santa Dorotea, mi scusi, di Santa Massenza, che era un posto normalmente adibito, e lì ci sono anche dei legami abbastanza stretti, all'organista della cattedrale, cioè per tutto il 400 l'altarista di Santa Massenza è normalmente l'organista. Come per quasi tutto il 400 l'altarista di Santa Dorotea e il rector scolare. Diciamo che il rapporto fra il Lupi e gli altri canonici era abbastanza solido probabilmente anche dal punto di vista musicale, perché nel suo testamento lui lascia a alcuni, lo stesso Slaspek che prima si citava, lascia un clavicordo, diciamo, lascia degli strumenti a tutta una serie di personaggi che girano continuamente attorno al canonicato trentino. Succede che nel 55 arriva Wieser da Monaco, succede che probabilmente il giovane Wieser aveva già esperienza musicale, perché in un documento trentino è citato malamente come, mi sembra, suonatorem scolarum, una cosa di questo tipo. Si sa che poi Wieser verrà nominato e verrà investito dell'altare di Santa Massenza dalle stesse mani del Lupi, e questo è molto importante. Quindi fra i due c'era un legame molto stretto, che è appunto quel legame che Niemi prima diceva, che secondo me è molto importante portare avanti e vedere come si sviluppò. Perché? Perché dopo, come si sviluppò anche assieme agli altri canonici. Noi sappiamo che in quel tempo c'erano due massionari, il massionario tedesco e il massionario italiano, che ovviamente recitavano il gregoriano in cattedrale. Sappiamo che c'era un collegamento diretto anche dei massionari stessi con sia Lupi che Wieser. Sappiamo che probabilmente, siccome tutti i documenti metà 400, anni 60, anni 70, che rivestono una certa importanza per il ricordo dei nomi di Lupi e Wieser, hanno in sottofondo la vicinanza sempre di questi stessi personaggi che sono citati nel testamento di Lupi. Quindi possiamo anche dedurre lo stesso Schlasbeck, che all'interno della cattedrale di Trento, all'interno del massonariato, ci fosse comunque una specie di cappella della cattedrale che servisse anche per probabilmente cantare la musica polifonica contenuta nei codici. Nessuno ovviamente ce lo spiega in questo momento, i documenti mancano. E d'altra parte, la raccolta dei codici musicali trentini è pur vero che si è resistita nel tempo come raccolta, ma possiamo anche dire che probabilmente esistevano dei fascicoli sciolti prima che venivano usati proprio dagli stessi canonici per il canto. Ecco, io direi sull'Hinderbach che sicuramente, e sono d'accordo con Emmy, che sicuramente non ha avuto un buon rapporto con la musica, e tanto che probabilmente deviò gli interessi stessi del Wieser, in quanto da cappellano, cioè da rector scolarum, a scrittore di parte dei codici, a cappellano del principe vescovo, Wieser alla fine smise con i codici e passò probabilmente ad un'università per studiare legge. Ritorna verso gli anni 80-90 in Trentino e gli danno, mi sembra, la pieve di, non mi ricordo, Chione, una cosa di questo tipo. Quindi sicuramente Imbria non ha giocato molto bene sui codici. Ecco, un'altra cosa che volevo ricordare è che comunque, anche dopo il convegno fatto nell'85 proprio sui codici musicali trentini, promosso dalla provincia dedicato a Feininger, e c'è stato un piccolo sviluppo della cosa, è servito molto a attizzare il fuoco su comunque interesse attorno ai codici, e direi che soprattutto in America adesso negli ultimi 3-5 anni sono nate come minimo 5 tesi di laurea nuove, sì, sui codici, e c'è, mi sembra, Chicago, il professor Brown, che sta tentando di mettere assieme il repertorio perlomeno del codice 88 che raccoglie le messe del Dufa, io i pezzi singoli delle messe, per pubblicare un po' alla volta il corpo completo dei codici, sì, rifatto e rivisto. Grazie. Ecco, grazie molto per questo interessante intervento, ma adesso deve chiudere la prima seduta del nostro convegno. Sì. E vorrei soltanto aggiungere una cosa. È chiaro che il rapporto tra il Lupi e il Wieser è stato sicuramente molto stretto, e che anche il rapporto tra queste due personalità e tutto l'ambiente relativo al canonicato di Trento sia stato altrettanto stretto, e probabilmente, non è dimostrabile ovviamente tramite documenti, il Wieser, i Lupi e gli altri canonici formarono una sorta di cappella per l'esecuzione delle musiche polifoniche in cattedrale. Ma il fatto stesso che tutte queste persone avessero la duplice personalità di musicista e di altre funzioni pubbliche è direttamente legato a quel mondo tardo medievale che ho citato nella relazione, e che appunto l'atteggiamento dell'Hinderbach di diffidenza verso i codici, questo cattivo rapporto con la musica in ogni caso, è quasi da leggersi come una sorta di umanesimo, è qualcosa che lo lega comunque a quanto avviene nell'Italia nello stesso periodo. Grazie molto. Vorrei soltanto ringraziare tutti i relatori, tutti gli intervenienti e anche i partecipanti di questo seduto per le sue premure e per il suo interesse.